Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Una buonasera da Simone Spezia. Ci troviamo in diretta anche oggi da Trento, dove si svolge l'undicesima edizione del Festival dell'Economia. Un saluto a voi che ci ascoltate da casa o in macchina e un saluto alle persone che si stanno raccogliendo qua davanti in Piazzetta Pasi. Una buonasera a tutti naturalmente. Se volete venirci a trovare, siamo qua come sempre fino alle 18:30. Oggi sarete in onda con me, lunedì torna come sempre Sebastiano Barisoni. I temi che tratteremo oggi, allora fatemi partire dai mercati, perché come sempre abbiamo lo spazio di approfondimento di borsa, ma oggi merita una nota particolare, perché fino a metà giornata le borse andavano bene, erano positive, il guadagno era intorno al 0,5 percentuale, poi sono arrivati dei dati americani sull'occupazione negativi, nel senso che l'economia americana continua a creare posti di lavoro, ma non li crea al ritmo che si vorrebbe, al ritmo che si attendevano gli analisti, al ritmo che si attendeva la stessa Casa Bianca, che su questo fronte ha fatto una dichiarazione. E dunque Milano perde l'1,6% sul FTSE MIB, l'1,5% sul FTSE O'Share, l'America cede 0,5 percentuale sul Dow Jones, Francoforte cede l'1,17%, Parigi l'1,20%, Londra in realtà è l'unica borsa in guadagno, guadagna lo 0,3%, in un quadro per quanto riguarda Milano che vede positiva solo CNH che guadagna il 3,01%, poi andremo sul singolo caso di CNH, e complessivamente una giornata negativa per i titoli bancari con il Monte dei Paschi che cede il 4,6%, Banco Popolare il 4,2%, Unicredit il 4,19%, Popolare Emilia Romagna il 3,7%, Ubibanca il 3,5%. Questo il quadro dai mercati in breve, poi naturalmente ci torneremo sempre nella prima parte della trasmissione intorno alle 17:40. Il Festival dell'Economia sarà al centro, il tema trattato quest'anno al Festival dell'Economia sarà al centro di questa nostra puntata, toccando evidentemente anche temi di attualità. E il tema di quest'anno sono i luoghi della crescita. In apertura di trasmissione avremo un'intervista con un professore italiano che lavora a Berkeley, che ha scritto qualche anno fa un libro molto interessante che francamente mi sento di consigliare a tutti, che si intitola La nuova geografia del lavoro, nel quale identifica quelle aree geografiche negli Stati Uniti nelle quali si sta avendo maggiore sviluppo e identifica anche un nuovo modello, per così dire, di divario di reddito, un divario di reddito che non è più, come dire, è solo tra, per così dire, classi sociali, ma è anche un divario di reddito che si ha tra diverse aree del paese, i distretti dell'high-tech, i distretti come per esempio la Silicon Valley, luoghi nei quali ogni posto di lavoro creato crea 5 posti di lavoro nei servizi locali, come per esempio i bar, i ristoranti, piuttosto che i servizi legali e molto altro, quando l'industria manifatturiera tradizionale tendenzialmente, e almeno nel caso degli Stati Uniti, ne crea 1,15 per ogni posto di lavoro. Resteremo sul tema dei luoghi della crescita e lo faremo col presidente della provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, che ci raggiungerà, e vorremmo affrontare con lui proprio questo tema su come si può muovere la politica locale per migliorare la condizione economica delle aziende. E poi ci raggiungerà il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, che era anche qua ospite. Ovviamente non vi faremo mancare un aggiornamento, oltre che sui mercati, sull'annuncio e l'aumento di capitale di Banco Popolare con uno sconto al 29,6%, Banco Popolare oggi perde il 4,17% in questo momento. Questi i nostri temi, il 349-238-6666 per i vostri sms, i messaggi WhatsApp qua dal nostro studio di Trento non li riusciamo a leggere, quindi affidatevi ai tradizionalissimi sms. Le notizie in breve di oggi.

Abbiamo le stime di due banche centrali su due paesi europei, la Bundesbank che taglia le stime di crescita e di inflazione della Germania per il 2016 e il 2017, per il PIL di quest'anno prevede un più 1,7% dal più 1,8% atteso in precedenza, e sul 2017 si attende un più 1,4% contro il più 1,7% atteso in precedenza. L'inflazione è vista ad appena lo 0,2% contro l'1,1% atteso in precedenza, ed è stata abbassata anche la proiezione per il 2017, che vede un'inflazione all'1,5%. Importante, come sapete, questo anche per le decisioni della Banca Centrale Europea. Anche la Francia, la stima è un più 1,4% del PIL nel 2016, più 1,5% nel 2017, più 1,6% nel 2018. Inflazione allo 0,2% nel 2016, secondo la stima appunto della Banca Centrale francese. Abbiamo un po' di dichiarazioni del Presidente del Consiglio anche oggi. Dice: non prometto miracoli ma soluzioni concrete, parla di squallido e cinico tentativo di creare il panico sugli 80 euro. Dice: sull'economia abbiamo girato la curva ma ancora non basta. Ci sono un po' di indiscrezioni che stanno arrivando sul decreto competitività, chiederemo qualcosa al Ministro dello Sviluppo Economico Calenda, che sarà con noi più avanti. Si pensa a rendere permanente il bonus fiscale per il rientro dei cervelli in Italia, si pensano a sconti fiscali per gli sponsor delle start-up, ed è una bozza diffusa dall'ANSA. Proprio qua da Trento è intervenuto anche il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, e ha parlato della trattativa con i sindacati sulla produttività. La questione produttività, che noi abbiamo posto con forza in occasione della relazione nell'assemblea pubblica di Confindustria, abbiamo perso troppi punti rispetto alla Germania di produttività, eravamo abituati a usare lo strumento della svalutazione, e quando parliamo di industria dobbiamo chiederci quale industria vogliamo immaginare. E noi abbiamo chiara l'idea di quale industria, su quale industria puntare: un'industria ad alta intensità di investimenti, un'industria ad alto valore aggiunto, un'industria chiaramente innovativa, che ci permette, ci deve permettere di ridurre questo gap tra la produttività italiana e la produttività tedesca, perché se continua ad aumentare evidentemente corriamo non pochi rischi anche all'interno del mercato europeo. E quindi il problema opportunità produttività è uno dei grandi nodi di sviluppo del paese. Qui c'entrano anche l'impostazione delle relazioni industriali che dobbiamo dare insieme ai sindacati in una dimensione moderna. Boccia ha parlato anche di imprese, l'innovazione è centrale, ma è un concetto esteso per le imprese dal loro interno, significa passare da imprese patriarcali a imprese istituzioni. Sentiamo questo passaggio. L'innovazione è un concetto, diciamo, esteso, e quindi cosa fare? Dal lato interno alle aziende dobbiamo creare una grande stagione di innovazione a tutto campo per essere eccellenti in ogni funzione aziendale. Passare da imprese patriarcali a imprese istituzioni. Dal punto di vista paese dobbiamo costruire, diciamo, un percorso che agevoli i percorsi di innovazione delle imprese in una idea di intervento organico di politica economica che orienti le imprese a usare più equity, che orienti le imprese a stimolare, diciamo, contratti di secondo livello aziendale per lo scambio salario-produttività, che orienti le imprese in una evoluzione della questione digitale, che è non solo una questione di asset immateriale ma è anche una questione culturale. Aggiungere servizi ai prodotti realizzati dall'industria italiana è una delle grandi sfide che noi abbiamo di fronte. Se riusciremo a mettere a fattor comune tutti questi elementi e a portare avanti il sistema industriale in questa logica, scopriremo che l'innovazione è un fatto positivo che genera non conflitto ma concorrenza. We'll be right back. Allora, se vi fidate di me come recensore sui libri in tema di economia, devo dire la verità, ci sono veramente due libri in questi ultimi anni che a mio giudizio hanno rappresentato meglio quello che sta succedendo all'economia moderna con l'avvento delle tecnologie. Uno è un libro di un paio d'anni fa, di un anno fa circa, di Andrew McAfee e Eric Brynjolfsson, scusate per la cattiva pronuncia, sono due professori dell'MIT, e si intitola La nuova rivoluzione delle macchine, la trovate in italiano. L'altro è un'altra cosa nuova, che è La nuova geografia del lavoro, del professor Enrico Moretti dell'Università di Berkeley, che ha aperto quest'anno il Festival dell'Economia qua a Trento e che è in studio con noi. Professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, nel suo libro lei rappresenta quello che sta succedendo negli Stati Uniti, in quelli che sono i grandi distretti tecnologici. È un grande cambiamento economico, di mercato del lavoro e anche sociale. Ci può portare qualche esempio? Le chiederei innanzitutto molto pratico, anche spiegando ai nostri ascoltatori quanto lavoro generano questi distretti tecnologici in quello che potremmo definire un indotto allargato, no? Quello che comprende i servizi locali. Ci dà un'idea? Certo, tendiamo a pensare all'economia degli Stati Uniti come se fosse unica, una sola economia completamente omogenea. In realtà all'interno degli Stati Uniti esistono appunto dei distretti tecnologici avanzatissimi, che sono alcuni dei mercati del lavoro più produttivi del mondo, in cui i lavoratori hanno i salari più alti del mondo, e poi delle economie che sono molto meno avanzate, con produttività minore di quella dell'Italia, salari molto più bassi e occupazione stagnante. Nel primo gruppo ci sono, c'è dove vivo io, San Francisco e Silicon Valley, che è probabilmente il distretto dell'innovazione più importante del mondo, ma ci sono anche posti meno ovvi, per esempio Seattle, Austin in Texas, Raleigh-Durham in North Carolina, Washington. Seattle, che non a caso, ricordiamolo, è il punto di origine della Microsoft, quindi insomma è certamente questo un elemento che conta. In termini, diciamo appunto, di creazione di posti di lavoro e di livelli di reddito, quello che si riesce a raggiungere riuscendo ad ospitare, quello che in un'area geografica riesce a raggiungere riuscendo ad ospitare un distretto tecnologico di questo tipo è enorme rispetto ai distretti industriali tradizionali. Sì, i salari sono a volte il doppio, a volte il triplo rispetto al resto degli Stati Uniti. La crescita occupazionale è vari ordini di grandezza più grande. Ma la cosa più interessante è come la presenza del settore dell'innovazione in queste città influisce la domanda di lavoro per il lavoratore medio, per la persona che non lavora a Google, non lavora in un'impresa di biotecnologie, non ha un dottorato in matematica o non è un ingegnere elettronico. Questa forse è la parte più importante della storia, perché oggettivamente la maggior parte della gente non lavora nell'high tech. Anche a Silicon Valley, che è appunto il distretto più importante, il 20-22% dei lavoratori sono direttamente hanno un impiego direttamente nell'high tech. Il restante 80% dei lavoratori non lavorano in high tech, hanno lavori normali, proprio come quelli che vediamo intorno a noi in qualsiasi città italiana. Sì, i cosiddetti servizi locali, no? Professore, esatto. Possiamo citare, ma molto semplicemente, i barbieri, i bar, i ristoranti, i camerieri, ma anche un po' più avanzati, come per esempio gli avvocati, tanto per fare un esempio. Ecco, anche su questo fronte la quantità di creazione di posti di lavoro e di livelli di reddito che si raggiungono in questi distretti è incomparabile con quelli dei distretti manifatturieri tradizionali. Molto più alta. La ragione è che l'high tech e il settore dell'innovazione in generale, attraverso una crescita economica molto forte concentrata in quel settore, hanno un indotto, un effetto indiretto sulla domanda di lavoro in tutti gli altri settori. Quindi concretamente quando Google assume un ingegnere elettronico in centro a San Francisco, dove c'è uno dei suoi uffici, quella persona, quel reddito va a sostenere posti di lavoro per il tassista, il negoziante, il barista ma anche, come diceva lei, anche posti di lavoro più qualificati, come può essere l'avvocato, il medico, l'insegnante, quindi tutte quelle figure professionali di cui c'è bisogno in una città e che rappresentano oggettivamente i 2/3 della forza lavoro di qualsiasi città dell'America e dell'Italia. Tra l'altro questa è una quota abbastanza costante tra le città del mondo nei paesi occidentali. 2/3 della forza lavoro sono nei servizi. Quello che differenzia quei sistemi, quelle economie locali molto dinamiche, molto produttive da quelle più tradizionali come quelle italiane, è proprio il terzo della forza lavoro che è che non è nei servizi ma è nel cosiddetto settore dell'export. Mi pare, se non erro, se non ricordo male, perché il libro ormai l'ho letto un paio d'anni fa, che il rapporto sia 1,15 posti di lavoro creati nei servizi locali per ogni posto di lavoro creato nell'industria tradizionale, e il rapporto passa ad 1:5 per quanto riguarda i distretti tecnologici, è così? Si ricorda molto bene, quelli sono i numeri. Cioè, per ogni posto di lavoro nell'industria tecnologica che si aggiunge in una città, nel lungo periodo vediamo 4, in realtà quasi 5 posti di lavoro nel settore dei servizi tradizionali. Quindi è un effetto molto sostanziale. Per farle un esempio concreto, Twitter ha 2000 impiegati nel suo quarter di San Francisco. Secondo le mie stime, la presenza di Twitter a San Francisco indirettamente è responsabile per 10.000 posti di lavoro al di fuori dell'high tech. Quindi paradossalmente l'impatto principale occupazionale che un'impresa high-tech come Twitter ha in un'economia come quella di San Francisco non è per i lavoratori high-tech, ma è per il lavoratore medio che lavora, appunto, come si diceva, in un negozio, oppure che ha il falegname, il costruttore, l'architetto, il medico, l'avvocato e così via. Voglio calare un attimo questa cosa nella concretezza facendo un esempio, tra l'altro più o meno simile a, se non erro, a uno di quelli che lei fa nel suo libro, per spiegarlo ai nostri ascoltatori. Allora, molto semplicemente e molto brutalmente, quando si crea un posto di lavoro nell'industria tradizionale, che sia un operaio o un quadro, tanto per fare un esempio, il servizio che si genera, per esempio, nella ristorazione è un servizio abbastanza tradizionale. Può essere un ristorante a conduzione familiare, tanto per fare un esempio, un bar a conduzione familiare. Mentre invece, se vogliamo dirla così e per farla capire a tutti, il lavoratore dell'high-tech ha bisogno di un servizio un po' più fighetto. Quindi all'interno il ristorante del quale avrà bisogno l'ingegnere di Google è un ristorante con prezzi più alti, probabilmente stipendi più alti, livello di servizi un po' più avanzato e probabilmente anche qualità del cibo. Quindi come capite, le cose cambiano radicalmente. Il problema, professore, è che non tutti possono avere, non tutte le città possono avere un distretto high tech. Cosa si fa? Ma questo è, sì, è il problema di fondo. Questa industria dell'innovazione tende a essere molto concentrata geograficamente, a differenza per esempio della manifattura che tradizionale, che è più sparpagliata sul territorio. L'industria high tech tende a concentrarsi dove c'è altro high tech. Quindi le aree che hanno già una presenza di questa industria tendono a trarne sempre di più, e le aree che non ce l'hanno hanno difficoltà ad attrarne. In economia questo si chiama l'effetto clustering, cioè c'è un'agglomerazione di questi datori di lavoro che trovano conveniente localizzarsi uno vicino all'altro. Questo è praticamente sorprendente se uno pensa... Perché c'è travaso di idee, travaso di lavoratori, discussioni appunto tra persone che lavorano nello stesso ambito e magari in aziende diverse, un po' quello che abbiamo visto in qualche distretto industriale italiano. Certo, è fondamentale. Praticamente la produttività di un lavoratore e il successo economico dell'impresa dipendono non solo dalle caratteristiche di quel lavoratore o da quello che succede all'interno dell'impresa, ma dipendono da tutto l'ecosistema produttivo che sta intorno a quel lavoratore e a quell'impresa. I dati parlano chiaro. Un lavoratore che high tech che va in uno di questi cluster grossi, come può essere San Francisco, Silicon Valley, è molto più produttivo, molto più creativo e molto più innovativo dello stesso lavoratore in un'area non, in cui non ci sono, non c'è un cluster. E questo crea un po' di problemi per aree come quelle italiane in cui questi cluster non sono molto presenti. Allora, professore, noi adesso ci fermiamo un attimo, ci ritroviamo dopo la pausa per il meteo, perché io vorrei capire da lei come si può, non solo per l'Italia, ma anche per queste aree degli Stati Uniti, colmare questo gap, cioè cercare di ridurre queste disuguaglianze che a questo punto non sono più solamente singole tra persone o tra masse e persone che hanno grandi ricchezze, ma soprattutto tra una zona produttiva e un'altra, tra un attimo. State ascoltando un programma offerto da Vicinissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. Focus Economia. Ritorniamo dunque in diretta con il professor Enrico Moretti dell'Università di Berkeley per parlare del suo lavoro, in realtà, proprio su quella che è la nuova geografia del lavoro, che è anche un libro uscito in Italia qualche tempo fa. Allora, professore, eravamo rimasti sul tema a fronte di aree degli Stati Uniti, ma presumibilmente anche dell'Italia, così differenziate, nelle quali i redditi tendono a crescere in maniera molto più forte rispetto a quelle che sono le aree industriali tradizionali, stiamo parlando appunto delle aree nelle quali si concentra l'high tech, come si può colmare questa disuguaglianza che si sta generando tra queste aree e altre aree degli Stati Uniti, avere come dire, che genera questo sviluppo che si genera così diseguale, come raccontava anche ieri Sebastiano Barisoni da questi stessi microfoni, e probabilmente poi in questo mare di disuguaglianza che Donald Trump pesca un pezzo dei suoi voti, evidentemente. Come si può? C'è un modo, c'è una qualche forma di policy che si può mettere in atto? Questa è la domanda da un miliardo di euro. Io sono personalmente scettico sulle politiche industriali dirette che cercano di costruire delle Silicon Valley nelle località che non hanno una Silicon Valley, cioè che spendere miliardi di dollari a Detroit o Flint per creare il nuovo polo della biotecnologia piuttosto che il nuovo polo di internet. La storia dei cluster industriali americani dimostra che le città che hanno successo hanno una storia molto particolare in cui spesso il successo è bottom up più che top down, cioè viene dal successo di un'impresa locale intorno alla quale poi si agglomera questo ecosistema produttivo. Questo è vero sia per i grossi cluster come Silicon Valley, Seattle, Austin, sia per quelli più piccoli, più specializzati che si trovano un po' dappertutto negli Stati Uniti. Questo però, e ci sono tanti esempi di politiche industriali di questo genere che non funzionano. In Italia ovviamente abbiamo una lunga storia di politiche industriali del genere, si pensi all'esperienza della Cassa del Mezzogiorno, era sostanzialmente una politica industriale che andava a cercare di sviluppare alcune aree in maniera completamente avulsa dalla storia e dal territorio di queste aree. Abbiamo speso miliardi, l'equivalente di miliardi di euro, con risultati molto piuttosto deboli, diciamo. La stessa cosa avviene negli Stati Uniti. Gli Stati americani spendono in media 80 miliardi all'anno, di dollari all'anno, per cercare di questo tipo di politiche. In realtà i successi sono abbastanza limitati. Questo però non vuol dire che non ci sia niente da fare dal punto di vista della politica economica. La determinante principale del successo economico di un'area, della sua produttività e della sua propensione a innovare, è il capitale umano della forza lavoro di quest'area. Quindi scolarità, training sul posto di lavoro, creatività. E questo, in questo senso sicuramente c'è un ruolo dal punto di vista per il governo. Quindi investimento nel capitale umano, quindi nella scuola a tutti i suoi livelli e nell'università, secondo me è una delle migliori politiche industriali che gli Stati Uniti o l'Italia possono mettere in atto oggi. E poi ovviamente ci sarebbe tutto un capitolo che qua non apriamo perché andremo veramente troppo lunghi su quanto si crea un ambiente favorevole alla generazione di impresa, perché a prescindere dagli investimenti poi devi far sì che queste aziende, nel momento nel quale hai il capitale umano, ossia la gente con le idee, la formazione e via dicendo, devi anche creare un ambiente favorevole affinché costoro possano esprimersi nella maniera migliore possibile. Ma come si diceva, questo è tutto un altro capitolo. Intanto la ringrazio, grazie al professor Enrico Moretti e buonasera. Grazie a lei, buonasera. Dunque, rimaniamo adesso su questi temi. Prima anche qualche risposta agli sms che arrivano dagli ascoltatori. Uno semplicemente di spiegazione dice: dato che non sono tutti professori ad ascoltare, diteci cos'è un cluster. È una localizzazione, diciamo, di imprese in una certa area geografica e con determinate caratteristiche. Questo per quanto riguarda la pura spiegazione. Voglio dire all'ascoltatore che ci scrive, dice: certo che se sono questi professori si spiega perché siamo conciati così. Tra l'altro guardi i conti di Twitter. Le ripeto, non è una questione di conti di Twitter, come ci spiegava il professor Moretti, e non è una questione nemmeno dei conti di Facebook o di chiunque altro. È una questione di quello che creano questo, di quello che crea questo tipo di imprese intorno a sé, in termini non solo dell'indotto classico, per cui, non lo so, produco auto e quindi ho intorno, mi creo una rete con il subfornitore che fa i volanti, quell'altro che mi fa delle parti del motore, ma sono i servizi locali che si vengono a creare, il bar, il barbiere, magari appunto lo studio legale, lo studio fiscale, magari con livelli piuttosto avanzati e redditi più alti. Non è, come dice un altro ascoltatore via SMS, la scoperta dell'acqua calda, perché con questa analisi il professor Moretti ci è anche andato dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama, quindi non stiamo parlando evidentemente di una ricerca e di un'analisi così banale. È uno spunto interessante per capire come cambiano le cose. Come si diceva, si allarga il divario tra chi è più ricco e chi è più povero, e questo l'abbiamo raccontato spesso, ma si allarga anche il divario a livello di aree territoriali. È qualcosa che anche in Italia in gran parte conosciamo bene. Siamo e trasmettiamo invece da un'area che diciamo di grandi problemi economici, tutto sommato possiamo dire che non ne ha, non come altre aree del paese. E siamo con il presidente della provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, che ci ha raggiunto in studio. Buongiorno e benvenuto. Buonasera a tutti. Buonasera, eccoci qua, presidente. Io vorrei capire se lei ci ha fatto un'idea, dal punto di vista di un'amministrazione locale. Poi voi avete la fortuna anche dell'autonomia, evidentemente, che da questo punto di vista vi consente di fare delle azioni e vi dà anche una capacità di spesa, insomma, non indifferente. Che cosa può fare un'amministrazione locale per lavorare nella chiave nella quale diceva Moretti, no? Lui diceva: noi nella nostra storia di errori nel voler piazzare aziende o scegliere determinati settori ne abbiamo fatti tantissimi. Si pensi solamente alla chimica in certe aree del sud e non solo. Bisogna semplicemente creare capitale umano e quindi formare le persone e creare un ambiente favorevole. Vorrei capire cosa può fare un'amministrazione locale da questo punto di vista. Diciamo che noi ci proviamo, poi bisogna vedere se sempre questo dà risultati positivi, però sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Moretti. È esattamente quello che stiamo cercando di fare noi. Prima di tutto proviamo a utilizzare le possibilità dell'autonomia per creare un contesto favorevole comunque alle imprese in senso lato, quindi da un punto di vista fiscale ma anche da un punto di vista dei servizi. Per esempio, noi stiamo chiedendo allo Stato che a spese nostre l'esercizio amministrativo della giustizia, cioè tutto ciò che sta prima dell'attività dei giudici, che molto spesso condiziona la velocità dei tempi della giustizia, sia esercitato a nostre spese, ma anche quindi con logiche organizzative migliori. Questo crea un contesto migliore. Cerchiamo di usare la burocrazia dando meno fastidio possibile alle imprese, per così dire, quindi dobbiamo avere una pubblica amministrazione la nostra, certamente ancora tanto da fare, tanta strada da fare, però che sia più veloce, più disponibile ai cambiamenti e pronta ad accompagnare anche scelte urbanistiche che le imprese ci chiamano a fare. C'è poi un ulteriore versante in Trentino sul quale stiamo lavorando da tempo, relazioni industriali con un sindacato maggiormente responsabile e più coinvolto nelle politiche di sviluppo e più partecipe quindi all'innovazione anche da un punto di vista organizzativo dentro le imprese, e investimenti tradizionalmente alti, 2% del PIL, in ricerca e sviluppo. Però il fattore decisivo è certamente quello su cui anche Moretti ha puntato l'attenzione, in particolare in questo momento in Occidente, in economie come le nostre che devono fare i conti con la capacità quantitativa di altri territori e di altri stati, la differenza la fa il capitale umano, l'innovazione vera la fa la qualità del capitale umano. Sì. Allora, io adesso andrei a sentire cosa succede sulle strade e poi ho un'altra domanda per lei. Qua molti ascoltatori pongono sotto l'attenzione la questione dell'autonomia della quale godete. Tutto vero, vi ricordo sempre che anche la Sicilia è una regione autonoma. Oggi Sebastiano Barisoni non c'era, non ha fatto la sua classifica, ma sapete quante volte la Sicilia rientra nelle classifiche degli sprechi di questo paese. Quindi c'è modo e modo, come dire, di gestire l'autonomia che uno ha. Il Trentino, come il Friuli Venezia Giulia, come la Sardegna e la Sicilia. Come sapete sono modi molto diversi, naturalmente. Vorrei capire come, secondo lei, si può declinare tutto questo a livello nazionale, perché, come ripeto, voi siete sicuramente un caso felice per certi aspetti, però vorrei capire se si è fatto un'idea, banalmente, da politico, su come si può declinare tutto questo a livello nazionale, ma prima il traffico. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo dopo il traffico, sempre con Ugo Rossi, presidente della provincia autonoma di Trento. Allora, presidente, vorrei capire come si riesce a declinare tutto questo, secondo lei, a livello nazionale, cioè se ci sono vie nelle quali, poi ne parleremo più avanti col ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, che ci raggiungerà in studio, però vorrei capire intanto lei come la vede. Beh, cominciamo col dire che gli investimenti in ricerca e sviluppo, ma anche normative e prassi che migliorino le relazioni industriali, sono politiche che possono essere portate avanti tranquillamente anche dal livello centrale. Per quanto riguarda la burocrazia, bisogna invece scommettere sulla capacità dei territori di avere una burocrazia che sia più efficiente e quindi dare loro questa possibilità. Per quanto riguarda il capitale umano, è chiaro che qui servono delle scelte di fondo. Mi scusi, Presidente, la possibilità ai territori è stata data e molti di loro hanno dimostrato di essere piuttosto fallaci nell'organizzazione della burocrazia. Infatti, questo sta nell'esercizio positivo dell'autonomia. Ci vogliono poi le classi dirigenti che sappiano valorizzare al massimo queste possibilità. Penso che ci sono molte differenze in Italia, ci sono territori dove questo possibilità è stata utilizzata, altri no. Bisogna che lo Stato faccia il proprio dovere e cerchi di valorizzare i posti dove questo è stato possibile e invece sostituirsi dove questo non è possibile. Per quanto riguarda invece il capitale umano, noi stiamo facendo investimenti straordinari sull'aspetto delle competenze linguistiche. Il nostro paese, in particolare per la lingua inglese, evidentemente è agli ultimi posti in Europa per un suo utilizzo. Noi abbiamo deciso, proprio in funzione di una valenza anche industriale ed economica, oltre che culturale, di investire risorse europee importantissime per introdurre in tutte le scuole, partendo dall'asilo nido, una pratica di utilizzo delle lingue che alzi il livello del nostro capitale umano. Questo sulle lingue. Dal lato invece della tecnologia, della spinta sulle professioni tecnologiche, state facendo qualcosa? Certamente sì. Noi stiamo cercando di sviluppare poli formativi e produttivi all'interno dei quali, nello stesso luogo, coesistano in un ecosistema positivo impresa, scuola, ricerca e università. Lo stiamo facendo a Rovereto sulla meccatronica ed è un piccolo esempio di come anche un territorio può cercare di dare risposte positive in termini di politiche industriali. Certo, se tutto questo avviene slegato da politiche industriali nazionali e ognuno fa quello che vuole in una logica di anarchia, gli effetti evidentemente non si vedono. Non si vedono. La ringrazio, grazie a Ugo Rossi, presidente della provincia autonoma di Trento, al quale auguro una buona serata. Siamo ai mercati. Si chiude male oggi, si chiude male. -1.5% per il FTSE MIB, -1.4% per il FTSE Share. Solo tre titoli positivi sul listino principale milanese: sono CNH +0.1%, Snam +0.20%, Campari +0.06%. Tutto il resto è in rosso. Andrea Fontana, Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera, Simone. E mi sembra che su tutto questo abbia avuto un impatto potente il dato americano sul mercato del lavoro, no? Esattamente, ha disorientato i mercati, gli operatori si aspettavano un aumento dei posti di lavoro creati a maggio di 160.000 unità, ne sono arrivati meno di 40.000 chiaramente il mercato è rimasto un po' spiazzato, perché questo rimette in gioco i dubbi, le incertezze su quelle che potranno essere le scelte della Federal Reserve sui tassi di interesse. Mentre si arrivava da una serie di dati che alzavano la scommessa su un costo del denaro USA pronto ad essere alzato già nel mese di giugno o forse nel mese di luglio. Sì, non a caso qua abbiamo l'America che va male, ma non malissimo, è un Dow Jones che fa un -0.31%, lo Standard & Poor's 0.5%, e invece l'Europa va decisamente peggio, fatta eccezione per Londra che guadagna lo 0.4%. Da dire anche che gli Stati Uniti, come dicevamo in apertura, sostengono che c'è anche un fattore particolare compreso in questo rialzo un po' basso del numero di posti di lavoro, che riguarda lo sciopero del settore delle telecomunicazioni che c'è stato nel periodo preso in esame. Veniamo ai singoli titoli, però partiamo da quelli che sono andati bene. Questo CNH che guadagna oltre il 3%. Sì, è un recupero, perché comunque nell'ultimo mese il titolo ha perso il 6%, ma diciamo negli ultimi giorni sono arrivati alcuni dati sui beni agricoli americani, in particolare sui prezzi della soia, sui prezzi del mais, che sembrano indicare un leggero recupero del settore agricolo in cui CNH è impegnata, appunto, con i macchinari per le coltivazioni, e quindi un maggior ottimismo da parte anche degli analisti sul settore, sui concorrenti americani di CNH, e da qui questo buona performance di oggi, assolutamente in controtendenza rispetto al mercato e rispetto agli altri titoli del FTSE MIB. Tra i titoli negativi abbiamo il Banco Popolare, che c'è del 5.18%, ma ne parleremo, ve lo dico, subito dopo GR24, quindi subito dopo le 18, perché ieri sono state fissate le condizioni, appunto, dell'aumento di capitale da 1 miliardo di euro chiesto alla Banca Centrale Europea. Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni sarà di 2,14 euro. Banco Popolare quota a 3,9 in questo momento. Per quanto riguarda altri titoli, RCS ti direi fondamentalmente. Sì, RCS sta vivendo una fase di attesa, confermata anche oggi dalle comunicazioni della Consob. Ieri è arrivato il via libera da parte di tutte le banche al rimodulamento del debito di RCS, era una delle condizioni da chiudere per poi dare il via a entrare nel caldo delle due offerte concorrenti per RCS, quella di Cairo e quella dei soci storici. Quella di Cairo partirà il 13 giugno perché ha già il via libera di Consob, ma oggi Consob ha comunicato che ha riaperto il dossier per l'offerta dei soci storici e che quindi probabilmente quindi entro il 10 di giugno potrà pronunciarsi entro questa offerta. Da lì vedremo se arriveranno dei rilanci dall'una o dall'altra parte per il gruppo editoriale. Oggi il titolo ha perso l'1.7%, ci si aspetta una settimana calda. Sì. Grazie ad Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore. Gli altri titoli, l'andamento degli altri titoli ve li do dopo la pausa GR24 e poi parleremo di Banco Popolare e avremo il ministro Calenda tra poco. Sono Giovanni Minoli, vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10 e mezza con le bolle di Mario Sechi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco, le inchieste di Giovanna Corsetti, il Vale la Pena di Alessandra Fiori e la comicità della Sora Cesira. E naturalmente ogni giorno i gialli della storia su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da... Vivacissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. State ascoltando un programma offerto da... Vivacissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. Focus Economia. Di nuovo buonasera da Simone Spezia e benvenuti a questa seconda parte di Focus Economia in diretta da Trento, dal Festival dell'Economia, da Piazzetta Pasi. Saremo in onda fino alle 18.30, come sapete Radio 24 la segue. Domani mattina ci sarà Alessio Maurizi in onda con Si Può Fare. A proposito del discorso che abbiamo fatto prima anche col professor Moretti, voglio essere chiaro, c'è un ascoltatore che scrive: io sono un operaio, in tutte le industrie che ho cambiato non ho mai visto servizi di commercialista, bar, negozio di abbigliamento, eccetera eccetera, e magari lo fanno gli imprenditori illuminati. Ci scrive: no, allora forse non ci siamo capiti oppure non mi sono spiegato bene io, qua parliamo di tutti servizi che si creano, diciamo così, automaticamente nel momento nel quale arriva un'azienda. Cioè, mettiamo, apre una fabbrica con 1000 posti di lavoro, 1000 persone ci lavorano dentro, davanti a qualcuno verrà l'idea di aprire un bar e di aprire un ristorante, verrà in mente a qualcuno, se apre un'azienda tecnologica proprio in quella zona, di aprire un servizio di avvocati che si occupino appunto di tecnologie e cose di questo genere. E questa è una creazione di posti di lavoro indiretta sui cosiddetti servizi locali. Questo era il punto, solamente per chiarire. Avevamo lasciato in sospeso il punto anche sui singoli titoli in borsa. Abbiamo parlato di CNH, di RCS, adesso arriveremo al Banco Popolare. Complessivamente possiamo dire che i bancari sono quasi tutti negativi, Unicredit meno 4,7%, Monte dei Paschi meno 4,6%, Popolare Emilia Romagna meno 4,01%, giù anche Xor oggi meno 3,9%, Unipol meno 3,9%, Unipol Sai meno 3,6%, Azimut che cede il 3,4%, Finmeccanica il 3,2%, UbiBanca il 3,19%, ancora sui bancari siamo, Saipem meno 3,05%, perdono il 2,9% Fiat Chrysler e Banca Mediolanum, Generali il 2,7%, il 2,5% Mediobanca, un po' più del 2% Fineco, Popolare Milano Mediaset, un po' meno Anima e Intesa San Paolo. E come si diceva, tutti gli altri titoli sono sostanzialmente negativi, fatta eccezione per CNH più 3,01, Snam più 0,20, Campari più 0,06, Ferragamo e Terra che sono in perfetto pareggio, tutti gli altri titoli sono in negativo. Veniamo dunque al Banco Popolare. Ieri il Consiglio di Amministrazione ha fissato le condizioni dell'aumento di capitale da 1 miliardo di euro chiesto dalla Banca Centrale Europea. Siamo in linea con Luca Davide del Sole 24 Ore. Luca, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Siamo tra l'altro in realtà a poche centinaia di metri di distanza, perché sei anche tu a Trento, ma non ci hai raggiunto in studio perché stai seguendo sempre vicende di banche, perché è in questo momento in corso un incontro sul Fondo Atlante con Alessandro Penati, che tu stai giustamente seguendo, e quindi ti strapperemo solamente pochi minuti. Allora, dacci i dettagli di questo momento di capitale, Luca. È un momento di capitale che non c'è. Luca, ti abbiamo perso. Allora riparti, vai, vediamo un attimo se regge la linea. No, non regge la linea con Luca Davi, che cade evidentemente anche a breve distanza, così limitata come a Trento. Non riusciamo a connetterci, ogni tanto succede. Comunque, le condizioni dell'aumento di capitale da 1 miliardo di euro chiesto dalla BCE, vediamo se riesco a riassumervelo io. Allora, per autorizzare ovviamente la fusione con la Banca Popolare di Milano. Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni sarà di 2,14 euro con uno sconto del 29,3%, il prezzo teorico dopo lo stacco del diritto di opzione. La ricapitalizzazione partirà lunedì. E dunque siamo con Luca Davi, vediamo se adesso la linea regge. Luca, ci sei? Io mi sento. Perfetto, allora abbiamo dato il quadro generale, sconto del 29,3% rispetto al prezzo teorico dopo lo stacco e il diritto di opzione. Quali altri dettagli possiamo dare, anche perché insomma, qualche azionista del Banco Popolare che ci ascolta ce l'avremo insomma. Diciamo che c'è da aspettarsi a partire da lunedì, come in qualche modo si è visto anche già nelle ultime sedute, un'oscillazione forte dei prezzi, dei titoli ovviamente del Banco Popolare, e questo sarà legato all'andamento anche dei diritti. Ma al di là delle questioni tecniche, qual è il senso di questa operazione che è stata richiesta dalla Banca Centrale Europea? Quella di aumentare il capitale, perché serve, questa è la richiesta che arriva da Francoforte, serve aumentare le coperture sulle sofferenze. E questo è il prerequisito perché poi la vigilanza europea dia il disco verde alla fusione con la Banca Popolare di Milano. La BCE l'ha detto chiaramente in tutte le sue dimostrazioni, in tutte le sue occasioni, vuole banche più forti, più solide, e visto che si sta creando la terza banca italiana, perché questa è la dimensione che avrà il polo BPM Banco dopo la fusione, allora vuole che il patrimonio e tutte le sofferenze siano coperte a livello necessario. A proposito di sofferenze, e questa è una notizia insomma che in qualche modo il numero uno del Fondatlante ha appena dato insomma alla sala e a coloro che sono qua a Trento, al Festival dell'Economia, è che Atlante interverrà con un grande acquisto di sofferenze, di non performing loans entro la prima metà di luglio. Questa è l'indicazione che arriva, una sola grande però operazione di acquisto di sofferenze che in qualche modo dovrà dare una scossa al mercato dei crediti deteriorati in Italia, dovrà dare un nuovo benchmark di prezzi, quindi sostanzialmente si presume, ed è questo l'auspicio di Penati, dovrà dare davvero un nuovo prezzo a tutte le sofferenze, dovrà ridare quello che si chiama un benchmark. Questa è l'indicazione che arriva, ed è questa l'indicazione che Penati ha appena dato ai giornalisti e alle persone presenti qua a Trento. Sofferenze, lo ricordiamo sempre per i nostri ascoltatori, perché poi magari poi alla fine qualcuno ce lo chiede, nonostante ne abbiamo parlato all'infinito, sono i crediti che le banche non riescono più ad esigere, dai mutui ai finanziamenti concessi alle imprese e così via. Dice Penati con una frase suggestiva in queste settimane: come talpe abbiamo scavato sottoterra su come usare al meglio le risorse, ci siamo cervellati, e poi ha detto appunto entro la prima metà di luglio sarei felice di farcela una grande operazione sui non performing loans, ossia appunto le sofferenze. Noi adesso ci fermiamo e ringrazio Luca Davi del Sole 24 Ore, il traffico, e poi parliamo col ministro Calenda. Smau Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smau.it. Vi presenta Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, sempre in diretta da Trento, dove si sta svolgendo il Festival dell'Economia. Siamo in Piazzetta Pasi, c'è là il nostro stand, come sempre se ci volete venire a trovare. Ospite oggi, tra gli altri, per uno degli incontri del Festival dell'Economia, c'era il ministro allo sviluppo economico, Carlo Calenda, che è in studio con noi. Buongiorno ministro, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Allora, partirei da questo. Nella sua prima relazione all'Assemblea di Confindustria, il neopresidente Vincenzo Boccia ha fatto, secondo me, un eccellente punto, e non lo dico perché è Confindustria e siamo sulle frequenze di Radio 24, però proprio in apertura ha detto: al termine, diciamo, in questa coda finale di crisi, ci ritroviamo in questa situazione. Una serie di imprese è riuscita a sfruttare tutte le occasioni e ad eccellere, sono entrate, poi lo diceva anche lei oggi ministro, in quella che è la catena globale del valore, sono 14-15 mila. Ci sono delle imprese che invece hanno provato a resistere a tutto questo con un vecchio schema, facendo concorrenza sul prezzo, tagliando i costi sbagliati, magari anche quelli in ricerca e sviluppo. E poi c'è la grande massa che in realtà è ad un bivio. Dice Boccia, Confindustria ha il dovere di aiutare queste imprese a scegliere il lato giusto, cioè a prendere la strada giusta. Quello che voglio capire da lei è come vi state orientando voi per aiutare voi le imprese a scegliere il bivio giusto. Intanto è una lettura fondamentale, perché noi siamo abituati a discutere di dati complessivi sull'Italia che nascondono cose molto diverse. Aziende che vanno molto bene, aziende che vanno molto male, sono rimaste domestiche, eccetera, anche geograficamente ovviamente, ma non solo, dimensionalmente per esempio, per settore. Allora io penso che il governo deve fare due cose, e fa due cose. La prima è lavorare su quelli che sono i fattori della produzione, cioè fattori che colpiscono tutte le aziende in qualunque modo, sottraendo capacità di competitività. Costi dell'energia troppo alti, una pubblica amministrazione che molto spesso non funziona, non riesce a dare risposte, quindi quelle cose che valgono per tutti in qualche misura. E poi invece deve andare a toccare specifiche problematiche di quel segmento di impresa che lei ha giustamente definito come quelli che sono a un bivio, che ce la possono fare. Per esempio sull'internazionalizzazione ce ne sono circa 60.000 che hanno tutte le caratteristiche per farcela. Qual è il punto? Il punto è che queste vanno aiutate, non dico una a una, ma quasi. Allora noi per esempio stiamo lanciando adesso un programma che si chiama Alti Potenziali, che mira a prendere queste imprese, a aiutarle con dei programmi tailor made, cioè a sedersi con loro, a vedere qual è il loro piano, a fargli realizzare per esempio se hanno bisogno di aprire il capitale, magari vogliono aprire un ufficio a New York, magari vogliono aprire un negozio a Mosca, ma uno gli deve spiegare quella cosa lì implica delle risorse finanziarie, sei capace di finanziarle con il tuo circolante, hai bisogno invece di investitori fuori, ecco, aiutarle a riflettere su un orizzonte che non è un orizzonte immediato, non è quello di pancia dove i nostri imprenditori sono i più bravi del mondo, ma è anche quello di testa, che è una cosa più complessa per un'azienda magari meno managerializzata e più piccola. Mi sembra di capire che è in quest'ottica che voi state ripensando all'interno del Ministero a tutto il sistema degli incentivi, no? Cioè l'idea è che ci sono 3 miliardi da sfrondare o quantomeno bisogna capire di questi 3 miliardi quali sono, quanti sono veramente efficaci per fare sviluppo. Come vi state muovendo? Ma guarda, il sistema degli incentivi è molto stratificato, si è stratificato nel corso degli anni. Alcuni stanno, funzionano, altri non funzionano, su altri ancora non abbiamo metriche per capire se hanno funzionato o non funzionato. Allora, quello che è chiaro è che prima di lanciarne di nuovi, quello che va fatto è un lavoro di razionalizzazione, andando a utilizzare un meccanismo che è molto semplice, chiunque sia stato in un'azienda conosce, cioè la soddisfazione del cliente. Allora, da lì che noi cercheremo di ricavare se un tipologia di incentivo funziona o meno. L'altra cosa però che è più generale e ancora più importante è che gli incentivi devono avere o delle dimensioni ragguardevoli, significative, per poter effettivamente correggere un problema o aiutare un'impresa a risolvere un problema. Ma se sono parcellizzate in tante piccole cose che possono magari far dire al ministro di turno mi sono occupato di smart cities, mi sono occupato di startup, mi sono occupato, ma in realtà non ti sei occupato di niente perché tutti quei pezzettini insieme non fanno nulla, sono solo, come posso dire, oggetti di conferenze stampa. Ecco, io credo che questo sia un sistema radicalmente da ripensare. Può essere che ci siano delle iniziative che sono meritevoli di incentivi o di supporto che oggi noi non abbiamo i soldi per fare e vanno semplicemente posticipate o vanno trovati i soldi adeguati. Quello che non possiamo più avere è un menu infinito per dire copriamo tutto, ma poi alla fine non copriamo niente. Nella prima parte della trasmissione abbiamo ospitato Enrico Moretti, che ha aperto il Festival dell'Economia di Trento, è un professore italiano che lavora a Berkeley, lo abbiamo raccontato prima nel corso della trasmissione. A Moretti abbiamo rivolto questa domanda, abbiamo detto, allora, posto che lei ci ha raccontato che negli Stati Uniti ormai esiste un divario geografico vero e proprio tra alcune città che riescono a realizzare uno sviluppo anche forte grazie ai distretti dell'high tech e città che sostanzialmente stanno morendo, c'è una forma di politica economica che si possa adottare per far sì che questo divario si riduca? È quello che chiedo a lei, cioè come interpretate la politica e come interpreta lei la politica industriale? Allora, intanto questo è moltissimo negli Stati Uniti, è molto purtroppo anche in Italia. Le polarizzazioni, cioè prima la fase della globalizzazione ha costruito grandi polarizzazioni all'interno dei paesi avanzati, l'ha costruita all'interno delle diverse, chiamiamole così, classi, no? Cioè per cui quelli che stanno molto bene stanno ancora meglio, ma per esempio tutta la classe media è andata sotto pressione terribilmente. E l'ha costruito in termini di aree di specializzazione. Allora, cosa si può fare? Io continuo a pensare che esista una politica dei fattori produttivi che è la prima che va fatta. Cioè, tu puoi incominciarti a occupare dei singoli settori, ma solo una volta che tutte le cose macro funzionano, cioè è un costo dell'energia decente, un costo del lavoro decente, delle tasse generali che funzionano, perché quelli sono, si applicano a tutti. E poi c'è un altro punto, vede, l'Italia ha uno straordinario sistema imprenditoriale, cioè noi non abbiamo un buco di imprenditorialità, al contrario. Allora noi dobbiamo anche costruire, la politica non l'ha fatto per anni, dobbiamo costruire un po' di affidamento, cioè di fidarci un pochino, che non siamo noi a dover decidere i settori su cui investire, loro lo sanno, gli imprenditori italiani si muovono, certo gli manca un contesto e noi quel contesto dobbiamo costruire, questa è la prima politica industriale per me. Questo è il primo punto di politica industriale, come diciamo Moretti, del resto cioè non serve a niente decidere in quel posto metto l'high tech o in quel posto ci metto qualcos'altro, perché la storia italiana è piena di vicende di questo genere. Pensiamo solamente alla chimica, tanto per fare un esempio, e si sono rivelate cose fallimentari. C'è un altro fronte, secondo lei, sul quale potete lavorare, insomma, al di là della creazione del contesto? Sì, secondo me ci sono alcuni fattori che sono trasversali. Citavo prima il caso alti potenziali e il tema della crescita, dove però anche lì bisogna stare molto attenti a intervenire. Perché? Perché nelle politiche attive, le politiche attive hanno una componente di efficienza, cioè possono essere delle ottime idee in astratto, ma poi quando vanno a atterrare sul campo si dimostra che magari la pubblica amministrazione non è capace di erogarla. Allora l'altro principio su cui bisogna lavorare quando si fanno queste cose è lavorare con partner privati. Cioè non è detto che tu devi fare tutto come pubblica amministrazione quando fai incentivi di politiche attive, ma anzi al contrario devi costruire partnership, che siano le grandi società di consulenza che magari non arrivano oggi sulle piccole e medie imprese, che siano per esempio quelli che si occupano di temporary export management, ma non è che devi ricreare tutto tu, devi usare moltissimo le sinergie che trovi nel privato. Allora, per chiudere, andrei poi anche su un paio di cose un po' più concrete, un po' più di attualità. Innanzitutto una domanda che abbiamo, se vogliamo, mancato prima, sul tema della revisione degli incentivi, di questi 3 miliardi. Quando intendete chiudere o quando intendete almeno avere un quadro generale che possiate rendere pubblico? Intanto il riferimento l'ho fatto prima per dare un ordine di grandezza. Quello che stiamo facendo è andare linea per linea a vedere quanti sono. Alcuni sono fuori bilancio, altri sono fondi europei che vengono attratti, quindi altri sono cosiddetti fondi in perenzione che non sono stati spesi. Quindi l'ammontare è, diciamo, relativo a quello che oggi è utilizzabile in qualche modo, perché sennò sono molti di più e stiamo guardandoli appunto uno a uno. Il mio obiettivo è di avere entro settembre un piano industriale del Ministero, cioè che dica esattamente in quali le aree il Ministero deve operare e in quali non deve operare, e di conseguenza quali incentivi in termini di tipologia e in termini di obiettivi deve avere, quali invece vanno cancellati. In alcuni casi possono essere cancellati per fare massa critica su quelli che funzionano, in altri casi vanno semplicemente cancellati a favore della fiscalità generale per poter fare per esempio il taglio dell'IRES. E questo per quanto riguarda gli incentivi, quindi mi sembra di aver capito più o meno settembre dovremmo avere un quadro, e questo è un primo punto importante. Secondo punto, il tema della contrattazione per la produttività, sindacati e Confindustria si siederanno ad un tavolo, mi sembra di aver capito che almeno al momento non avete intenzione di mettere una deadline, visto il recente insediamento del Presidente. No, il Presidente di Confindustria è stato appena eletto, è giusto dare tutto il tempo, tutto lo spazio alle parti sociali per concludere. È molto importante che lo facciano loro, sarebbe un segnale fondamentale per il Paese. È chiaro che l'argomento è talmente importante in termini di, per esempio, di produttività del lavoro, talmente fondamentale anche in vista proprio della manifattura 4.0 e della rivoluzione industriale che stiamo in fondo affrontando, è talmente importante che a un certo punto, qualora non si dovesse raggiungere un accordo, il governo dovrà in qualche modo intervenire. In qualche modo intervenire, però appunto la deadline al momento sostanzialmente sarebbe estremamente scortese al minimo, no? Senta, oggi sono circolate in agenzia, l'avrà vista anche lei, le indiscrezioni sul decreto competitività, si parla di rendere stabili gli incentivi fiscali per il rientro dei cervelli, che cosa ci può dire su questo? Guardi, poco, perché penso che quando si discutono i provvedimenti che sono varati e quando sono stabilizzati all'interno del governo, discutere le anticipazioni rischia di dare informazioni imprecise ai cittadini e in qualche modo anche di coltivare aspettative sia negative che positive, ma comunque che poi magari si rivelano sbagliate. Infine il fronte Ilva, la cessione dell'Ilva, vorrei capire come vanno le cose, le scadenze, che cosa dobbiamo aspettarci. Mi sembra di aver capito che, come dire, siete stati un po' più stringenti nel parlare con gli interlocutori che hanno presentato le offerte dal punto di vista, dal lato ambientale, per così dire? Beh, guardi, è molto semplice. Ci sono, diciamo, manifestazioni di interesse che si concretizzeranno entro la fine di giugno. Quello che hanno chiesto più o meno tutti i soggetti che stanno guardando, ancora non hanno formalizzato le offerte, è che comunque avevano chiesto che l'eventuale assegnazione, aggiudicazione, avrebbe dovuto essere sospesa in attesa che il loro piano ambientale fosse approvato. A quel punto il governo ha detto bene, benissimo, siamo d'accordo, anzi è giusto, però noi non aggiudicheremo finché non sappiamo se i piani ambientali presentati sono quali e quanti sono compatibili con quello che noi pensiamo debba essere il futuro dell'Ilva, che deve essere un futuro che preserva l'ambiente. E quindi, diciamo, questa fase dell'ambiente è stata posta al centro. E guardate, è stata posta al centro perché comunque è al centro. E allora riteniamo che anche per trasparenza nei confronti degli investitori è bene che questo sia chiaro, e peraltro è molto condiviso con i potenziali investitori. Grazie Carlo Calenda, Ministro dello Sviluppo Economico, per essere stato con noi, e buonasera. Grazie, grazie mille. Ed è tutto, tutto anche per oggi per Focus Economia, in diretta da Trento, da Piazza Pasi. Ringraziamenti vanno ad Alessandro Longoni e Barbara Bianchi in assistenza in redazione, per la parte tecnica Filippo Reggi, Gianmarco Ferronato, Alessio Petrucci. Un grazie come sempre per tutti voi, a tutti voi per l'ascolto. La trasmissione torna lunedì alle 17 con Sebastiano Barisoni. Una buona serata da Simone Spezia. Radio 24. La passione si sente.